Ad alta voce, Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Dodicesima puntata. Giordano gli consegnò, che si era appena svegliato il mattino dopo, due telegrammi. Uno veniva da Monticello e diceva: «Ti auguro un Natale migliore del mio, Nuccia». L'altro veniva da Formia ed era di Amoruso: «Telefonami subito, ho lieta notizia da comunicarti». Quest'altro, più che incuriosirlo, lo divertì: «Sta a vedere che la senatrice era stata incinta, dai e dai». «Dopo il matrimonio dai reparatore, lieto evento in casa Amoruso. I miei amici, loro, non sono cani abbandonati». Uscì per andare a telefonare. Invece si trovò alla stazione a prendere il treno. All'una era a Formia e arrivava sotto la pioggia gelata con un panettone in mano al villino. Caso segnalabile, nessun ospite. Adele stava a letto, non per altro che un raffreddore. Ferranini era poco mondano, ma ebbe l'accortezza di non accennare all'ipotesi che si era fatto nel leggere il telegramma. Nel mentre Amoruso, incontrando la visita in attesa con la solita cordialità espansiva, gli faceva strada verso la poltrona e gli avvicinava il carrello del bar. «Adesso ti racconto una notizia che ti esalterà. Intanto vedi che abbiamo importato dal nord un Natale in regola? Qua dietro, sulla montagna, c'è la neve». Mangiarono loro due soli al tavolino accostato al fuoco e Amoruso raccontò: «Si celebrava il secondo centenario dell'Accademia delle Scienze a Leningrado e lo avevano designato a andarci in rappresentanza del partito. Con lui doveva andare il vecchio professor Di Costanzo, ordinario di chimica a Napoli e uno dei patriarchi del comunismo meridionale. Di Costanzo non si sentiva di affrontare la trasferta. Aveva chiamato Amoruso perché trovasse modo di esonerarlo. Allora lui aveva telefonato a Mauro, a Roma». «Sei riuscito a parlargli?» lo interruppe Ferranini. Gli correva il pensiero al povero Mazzola. «Sta a sentire, ora viene il bello. Beh, è logico che Mauro mi risponda. Perché sei il suo medico. Perché sono, non dico un deputato del PC, ma un iscritto al PC. Tu mi stupisci, diavolo. Il comunismo abolirà lo Stato e dovrebbero restarci le gerarchie dentro al partito. Le anticamere. Dunque». Mauro non era al corrente della faccenda. «Mi prega di ritelefonare entro mezz'ora che si sarebbe informato». «Ritelefono, dico. Al posto di Di Costanzo ci mettiamo Ferranini». «No», fece lui. «Sta a sentire. Dice Mauro, non è uno scienziato. E io, che ti importa? Il partito non è un corpo accademico e la sua delegazione può essere composta di politici. E aggiungo, scienziato manco io lo sono. Poi Ferranini conosce il russo, è già stato in Russia. Va bene, dice quello, ritelefona di qui a un'ora, mi informo». Gli ritelefono la terza volta: «Approvato». «Io? Dici me? Approvato me? Approvato te». E fra tre giorni Ferranini e Amoruso se ne vanno a Leningrado. Di che mi ringrazi, di che sei contento. Appena a Roma tu dai conferma. Ben altro che contento. Commosso era e stentò a tenerlo per sé. Gli facevano quell'onore. Dimenticavano di averlo dovuto richiamare per la sua condotta privata. Dall'alto gli veniva quel conforto. Mentre si sentiva solo e reietto. «Sai, non so che cosa dire», rispose a Amoruso. «È una cosa che io non merito». Arrivando a Formia, aveva avuto la tentazione di parlare all'amico dell'incontro con la Filippetto. Per fortuna era stato zitto. Quella era una storia superata, da non parlarne più. Non gli restava che ricambiare i suoi capi ubbidendo, mettendosi in regola. Andare a rivangare non era più il caso. Amoruso domandò: «E con Moravia? Il pezzo per Moravia, bisognerà pure che tu lo faccia. È già fatto, disse con una nuova animazione. Ed è venuto meglio di quello che credessi. Mandaglielo. Vedi che Amoruso ti lancia, ti mette in vista. Perbacco, sei un ragazzo di valore, ma una mammoletta. A questo mondo, caro mio, guai a nascondersi. Il pezzo destinato a nuovi argomenti gli tornò il giorno dopo con la posta dall'ufficio stampa. Qualcuno ci aveva appuntato un foglietto con queste parole scritte a matita rossa, di traverso. Non si legge. Seguiva una sigla, MCONC, poi la data. Stavo uscendo di casa. Non si legge. Non gli riusciva di capire lì per lì. Si incamminò e ci ripensava. Ma il mistero gli si spiegò subito e gli tornò il buon umore. Ciorbole, con quella sua calligrafia. L'articolo se lo era ricopiato a mano e quella brava gente all'ufficio stampa avevano rinunciato a decifrarlo. Vediamo se quelli della rivista di Moravia sono più bravi, ma me lo mandano indietro anche loro. Si fece dare una busta in una tabaccheria, ci infilò l'articolo, mise l'indirizzo, via degli Orsini e impostò. Impostò anche due righe per Nuccia, a via Ovidio. Due righe contegnose, spiranti serietà e modestia. Parto con una delegazione del partito per l'URSS. Non posso dirti di preciso quando rientreremo. Un saluto dal sinceramente tuo. La mattina del 29 dicembre, a Ciampino, venne anche la compagna Cariboni Amoruso. Adele, raffreddata e febbricitante, si era alzata dal letto per accompagnare il marito alla partenza. Sull'auto c'era un cappotto pesante, il bavero di pelliccia, che Amoruso prestava all'amico. Vuoi volare agli iperborei in impermeabile? Ormai abbiamo il guardaroba in comune, provati questo cappotto. E il cappotto andava benissimo. Ma la confusione di Ferranini divertì l'Adele. Direte che avrei dovuto pensarci, fece lui. Non ti giustificare, Walter, disse l'Adele ridiventando seria. Purtroppo agli uomini come te abbiamo perso l'abitudine. Tu sei un socialista all'antica. Scesero a Leningrado dopo aver pernottato a Varsavia. La sera, nel mettersi a letto, avevano diviso la stessa camera, Amoruso era venuto fuori a dire: «Ora che è tardi mi sento uno scrupolo. Non vorrei che la scossa fosse troppo forte per te». Ferranini si adombrò subito. «Cosa intendi?» «Eh sì, il viaggio in aereo, il clima». Contro il suo solito, Ferranini non aveva mangiato di gusto. Ma Amoruso stesso aveva mangiato poco, la stanchezza. «Puoi levarti gli scrupoli», gli rispose. «Avevo proprio bisogno di cambiare aria». Appena sceso a Leningrado, propose di mandare un telegramma di deferente saluto al compagno Maccagni. Un secondo telegramma fu per il compagno Mauro. Finalmente gli pareva di riprendere possesso di sé, i suoi rapporti col partito. Ecco il vero termometro della sua condizione vitale. Negli ultimi giorni, l'episodio Mazzola, i postumi della relazione con la Nuccia Corsi, senza volerlo, senza comprenderlo, si era lasciato mettere in uno stato di contrasto potenziale e questo disturbava a fondo il suo equilibrio. Non poteva sentirsi a posto, stare bene. Nello scrivere quei telegrammi si era ricordato di suo padre. Strano, non aveva la debolezza dei ricordi familiari, ma ce n'era stata la ragione. Ricordò che suo padre andava dicendo, riferendosi al socialismo italiano dei suoi tempi, «Troppe teste, il vecchio socialismo infetto dai personalismi». Chiamare uno socialista all'antica non è un complimento, chi sappia. E l'Adele Cariboni Amoruso evidentemente non lo sapeva, come si presenta oggi in Italia la realtà del socialismo. Milioni di lavoratori e un solo capo, colui che propugna con mano ferma i loro diritti, incarna i loro ideali. E che privilegio è! Qualche minuto dopo il loro arrivo all'albergo, sarebbe voluto tornare fuori a vedere la sede dell'Accademia delle Scienze che non era distante dall'hotel. Amoruso protestò. «Così, alla controra». E chi ci trovi all'una del pomeriggio? I festeggiamenti cominciano domattina. Adesso si fa la nanna, caro mio. Ci spetta. Le riunioni celebrative all'Accademia delle Scienze erano finite e Amoruso ne approfittò per esplorare l'enorme labirinto dell'Ermitage. Ferranini andò per conto suo, visitò l'incrociatore Aurora, la casa della cultura della cooperativa industriale e gli stabilimenti Kirov che hanno sostituito le antiche, famose, gloriose officine Putilov. Rinunciò a rintracciare il compagno Schmidt che gli aveva invitati ad andarlo a trovare. Si sedette, stanchissimo, in uno dei circoli ricreativi dello stabilimento. Bevendo una tazza di caffè, buttò giù gli appunti per un articoletto sulla città che aveva intenzione di far pubblicare sul periodico della Federazione di Reggio. Tornò in centro con la metropolitana, perché le strade e le immense piazze gli mettevano una certa tristezza. Gli ricordavano Torino. Prima, appena usciti dall'albergo, si erano fatti portare alla stazione di Varsavia. Volevano prenotare le cuccette sul treno per partire la sera. Amoruso ci teneva a fare il viaggio in ferrovia. Con nel cuore familiari il frastuono e la confusione della sua stazione di Reggio Emilia, Ferranini si era meravigliato alla quiete e pulizia che regnava nella vecchia stazione Terminus, una delle parecchie di cui la città era provvista, alle 9 del mattino. «Par di essere in una chiesa», commentò Amoruso, alzando gli occhi ai vetri della galleria che si incurvava sui binari. «Mi viene in mente la scena di Anna Karenina, che aspetta di gettarsi sotto le ruote, povera figlia». Un'anziana inserviente col grembiulone candido sulla divisa scura attendeva vicino a loro sulla piattaforma di legno e dinanzi le pendeva un grande samovar d'ottone da cui usciva un filo di vapore. C'era un vagone passeggeri fermo sul binario di testa. Seduto sulla scaletta, un uomo barbuto ne lustrava le maniglie con gesti gravi. A lacerare quel silenzio, qualche attimo dopo irrompeva l'espresso della Polonia con attaccati vagoni letto da Vienna, Berlino, Parigi. La locomotiva, e a Ferranini in particolare non sfuggì, era una modernissima diesel elettrica, alta e lunga come una casa, un interessante contrasto con l'ambiente, anche umano, della stazione. Mentre stavano a ammirare la macchina, smontò uno dei guidatori. Erano entrati al buffet a scaldarsi con un goccio di Slivovitz. Nell'uscire incrociarono il macchinista. «Adesso te lo intervisto», disse Amoruso. E lo raggiunse che stava bevendosi il suo bicchiere di tè verde fumante. Era un bell'uomo trentenne, basso, tarchiato, lo sguardo un po' fisso nel viso espressivo. Una fronte che si sarebbe detta pensosa sotto i capelli biondi. Amoruso trovò che aveva più il tipo del violinista che del macchinista. «Sono un compagno italiano», gli si rivolse. «Posso dirti una parola? Anzitutto, complimenti per la tua locomotiva. È potente. Che velocità fa?» «Se la linea lo permette, oltre 140 km all'ora. Sono 2000 cavalli. E le avete da molto tempo?» «Da qualche anno. I nostri elettrodiesel sono dello stesso modello di quelli in servizio negli Stati Uniti». Aveva dato le risposte con distacco, senza nessuna punta di orgoglio professionale. Intanto Ferranini si era accostato e Amoruso lo presentò. «È pure italiano, figlio di un macchinista delle ferrovie, di un tuo collega. Adesso spiegami, perché hai fatto un confronto con gli Stati Uniti?» «Unione Sovietica e Stati Uniti sono le due più grandi nazioni industriali. Però socialmente, politicamente, sono due mondi opposti». L'uomo rifletté un momento. «Qui e là», disse. «Quelli che portano le stesse macchine fanno la stessa vita». «E che vita è?» seguitò Amoruso. «Bene, In cabina abbiamo le poltrone di gomma piuma e l'aria condizionata. Per la gente di macchina non c'è più il caldo e il freddo. E se voglio sgranchirmi i muscoli, a casa mi faccio la ginnastica. Un bel progresso, insomma. Ma quando sono alla guida, le 700 tonnellate del treno è come se pesassero tutte sul mio petto. La tensione nervosa. Quante ore hai fatto stamattina? 4. Sei stanco? Mi sento leggermente ubriaco, faccio un po' fatica a capire le cose che tu mi dici. Aveva piegato la bocca in una smorfia. Ferranini prese Amoruso per il braccio. Lascialo in pace. Le stesse parole, sono ubriaco, da ragazzo le sentiva dire a suo padre quando smontava dal suo turno in macchina. Amoruso aveva ancora una domanda. Se c'era neve sul percorso. Il macchinista rispose che c'era neve e continuava a nevicare. Il suo treno, difatti, era arrivato in ritardo. Quanto? 11 minuti. Hai capito? Beata Unione Sovietica, esclamò Amoruso. 11 minuti e lo chiamano ritardo. Amoruso trovò che la conversazione era stata utilissima. Scartò l'idea di tornare in ferrovia e dalla stazione stessa telefonarono all'ufficio dell'Aeroflot per fissare il posto sull'aereo. Su Ferranini ebbe un effetto diverso e si diceva: con Amoruso a Roma di certe questioni abbiamo parlato, pareva che le sentisse. Adesso niente, è come se niente fosse. Ma che razza di uomo è? Uno che si svaga, un turista, un borghese. Il viaggio fu lungo e piuttosto tempestoso. Pessime le condizioni atmosferiche. Arrivarono la sera del 5. Ferranini non fu a casa e tutto che era mezzanotte. La mattina cominciarono le noie. Nel pacchetto della posta c'era un avviso della Federazione di Reggio che convocava per il giorno 7 alle 14 l'attivo provinciale del partito e c'era, a parte, una lettera di Viscardi. Questa diceva: il 7 abbiamo a Reggio una riunione di grande importanza per me e spero che finalmente la situazione si definisca. Ho i titoli per meritarmi il tuo appoggio, pertanto ti pregherei di non mancare. Se parti col rapido delle 8 ti verrei a prendere a Bologna con l'auto e proseguendo ti metterei al corrente. Ti prego telegrafarmi, la tua presenza mi sarebbe preziosa. Ecco, pensò. Subito quel che mi ci voleva per riambientarmi. Quell'egoista vanitoso di un bolognese. A Reggio dopodomani, non per consigliarsi sui problemi del socialismo di casa mia, ma ad appoggiare lui che vuole la cadrega. Se aspetti un pezzo, porci di egoisti tutti quanti. Fra la posta trovò l'avviso di un'altra riunione per il giorno 7, sempre a Reggio. Un comitato interprovinciale formato di recente e di cui aveva la presidenza per ottenere la costruzione di un nuovo ponte fra la riva emiliana e quella mantovana. Sarebbe andato a Reggio alla riunione del comitato interprovinciale senza farsi vedere a quell'altra, soltanto per mostrare la copia della lettera mandata al ministro e garantire che una volta almeno i burocrati dello Stato borghese non l'avrebbero avuta vinta. Cercò la copia, rovistò nei cassetti, nello scaffale, nella valigia che era ancora per terra da vuotare. Rovesciò la borsa delle carte e guardò persino sotto il letto. Una rabbia forse non sproporzionata, perché chissà di dove altro in lui aveva origine, gli montava dentro, gli velava gli occhi. Quando si chinò a frugare nel cestino della carta straccia, perse l'equilibrio. Sbatté forte la tempia contro lo spigolo della tavola. Si provò a bestemmiare, ma non lo scaricava. Continuò ad aprire e a chiudere, a smuovere oggetti meccanicamente, ossessionato, quasi convulso. La valigia gli stava fra i piedi. La respinse con un tal calcio che, infilata la porta, quella andò a ribaltarsi sul pianerottolo. Là, una mano paziente raccolse calzini sporchi e fazzoletti e li rimise nella valigia con garbo. Nuccia, che stava venendo su. «Beh!» urlò imbestialito adesso. Nuccia rimase curva sulla valigia. «Che cosa fai qui?» Ma lei aveva amore e intelligenza. Quelle collere in Walter non erano mai immotivate, per futile che ne fosse il pretesto. Lo aveva ben capito in quei pochi mesi. Erano segno di delusione, di tristezza. Il viaggio stavolta. È il terzo giorno che vengo, Walter. Non credevo che restassi via tanto. A quest'ora, dico, com'è che non sei a bottega, alle 9 della mattina? Da bravo, calmati, sei verde. È l'epifania, per questo sono libera. Dimmi cosa ti è successo. Stava con la valigia al fianco sulla porta e lui gliela sbarrava ancora. Lo sai che non devi più venirci qua dentro. Caso mai mi aspetti giù nel vicolo. Non ci verrò più, ma adesso lasciami entrare, sii buono. Poté entrare. Bada però che sto partendo, vado a Reggio. Ma che, Giordano mi dice che sei arrivato a mezzanotte e poi a quest'ora non ci sono treni. Partirai alle 2. Parto quando voglio. E andò a sedersi sul letto. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.